sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Soldati italiani uccisi in Afghanistan, fra i feriti anche una donna e un aereo precipitato in mattinata a nord di Kabul. Stasera l'Eurogruppo in soccorso dell'euro, l'Italia verso la manovra correttiva, nessun taglio agli stipendi pubblici, rassicura Brunetta. Dopo i guai con gli appalti, quelli con la moglie, Scaiola, non condivido l'intervista di oggi, dice. L'Inter campione d'Italia concentrata ora su Madrid, Balotelli a Radio 24, siamo i più forti. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Cici. Ripartiamo dall'attacco in Afghanistan, costato la vita, come sapete, a due militari italiani. Ci racconta meglio cos'è successo Cristina Carpinelli. Sì, buongiorno. Un attentato violento compiuto con un ordigno comandato a distanza. Sono morti così due militari italiani, due sono rimasti feriti gravemente alle gambe, anche se non sono in pericolo di vita. I due militari rimasti uccisi sono il sergente Massimiliano Ramadù, di 33 anni, di Velletri, in provincia di Roma, e il caporal maggiore Luigi Pascazio, 25 anni, della provincia di Bari. C'è anche una donna, è Cristina Buonacucina, ferita, 27 anni, è caporale del 32esimo reggimento Genio Taurianense, originaria di Foligno, è alla sua prima missione in Afghanistan. Il secondo militare ferito è Gianfranco Scire, 28 anni, di Casteldaccia, un comune in provincia di Palermo. I nostri militari si trovavano a bordo di un blindato Lince posizionato nel nucleo di testa di una colonna composta da decine di automezzi di diverse nazionalità, partita da Herat e diretta a nord. Le salme dei due militari caduti rientreranno in Italia presumibilmente nella prima mattinata di mercoledì, e per ora è tutto. Grazie Cristina Carpinelli. Il governo italiano intanto dice la missione non si ferma. Anna Migliorati. Sì, come sempre dopo episodi di questo genere c'è anche la discussione politica. Il primo ad esprimere cordoglio da parte del governo è stato oggi il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che ha parlato comunque di una missione di fondamentale importanza, una missione di pace, l'ha definita il Ministro degli Esteri Franco Frattini. L'esigenza di una riflessione, di una discussione da fare in Parlamento sulla missione è arrivata comunque dal segretario del PD Luigi Bersani, così come dall'Italia dei Valori, che aggiunge: noi riteniamo non più attuabile questa missione e non capiamo perché le nostre truppe devono restare in Afghanistan. Qualche perplessità all'interno del governo è arrivata solo dal ministro Calderoli, che dice: al di là della perdita di vite umane che fanno spaccare il cuore, bisogna verificare se i sacrifici servono. Ma ha aggiunto Calderoli: c'è una comunità internazionale e prenderemo le nostre decisioni insieme a loro. Posizione questa del governo ribadita da Milano dal ministro della difesa Ignazio La Russa, sentiamolo. Non è che non prenderemo in nessun caso decisioni unilaterali, anche perché siamo consapevoli, come ha detto il presidente Silvio Berlusconi, dell'importanza che continua ad avere questa missione per la pace in quell'area, per la sicurezza nei confronti del terrorismo a casa nostra. Non era un attentato diretto contro gli italiani, ha ribadito La Russa, ma contro tutta l'operatività dei militari, e per questo le decisioni, se ci saranno, verranno prese a livello internazionale. Per il momento però restano gli obiettivi che già l'Italia si era dati dal 2011, l'avvio del rientro dei militari, e l'obiettivo di far rientrare tutti i nostri soldati entro il 2013, quando, ha detto La Russa, speriamo che l'Afghanistan sia in grado di gestire il proprio territorio autonomamente, con forze armate in grado di gestire il terrorismo. Nel frattempo, dice La Russa, la contabilità delle vittime ci rende consapevoli dell'importanza di questa missione per portare la pace in questa zona, e aggiunto: se non ci fossero episodi come questi non ci sarebbe bisogno della missione stessa. I militari italiani in Afghanistan sono oggi 3.500, e un'ultima nota comunicata proprio questa mattina dal ministro della difesa: tra pochi giorni dovrebbe essere operativo il nuovo mezzo militare italiano, il cosiddetto Freccia, che dovrebbe essere presto utilizzato in Afghanistan e che, dicono dalla difesa, dovrebbe garantire maggiore sicurezza in questi casi ai Speriamo. Nostri militari. Grazie ad Anna Migliorati. E sempre dall'Afghanistan, purtroppo un'altra brutta notizia di oggi: è infatti precipitato un aereo della Pamir Airways, un aereo afghano, dunque, con 40 persone a bordo, fra cui 6 stranieri. L'aereo è precipitato a nord di Kabul per cause ancora ignote. Non si hanno notizie sulla nazionalità delle vittime. Ed ora in Thailandia, perché anche qui un italiano è rimasto coinvolto negli scontri. L'ultimatum dell'esercito non è servito a nulla. Alle ore 10 italiane, termine ultimo prima dell'intervento militare, erano ancora 5.000 i manifestanti delle camicie rosse nel presidio in centro a Bangkok, segno che preannuncia un'altra giornata di scontri tra militari e ribelli nel cuore della Thailandia. 400 persone, tra anziani e bambini, hanno trovato rifugio in un tempio buddista all'interno del quartiere occupato. Intanto sale a 35 il bilancio dei morti. Sotto il fuoco dei cecchini è morto anche il leader delle camicie rosse. 400 invece i feriti, tra questi anche un fotoreporter italiano colpito alla schiena da un proiettile. Una ferita la sua, non grave. L'uomo verrà dimesso dall'ospedale in un paio di giorni. In Thailandia si teme ora la diffusione della protesta anche fuori dalla capitale. La Farnesina invita alla prudenza gli italiani in vacanza, come conferma Fabrizio Romano, capo dell'unità di crisi. Per quanto riguarda l'area di Bangkok, effettivamente noi sconsigliamo i connazionali di recarsi in quella zona. Roberto Bonaldi, GR24, Il Sole 24 Ore. I ministri delle finanze della zona euro si ritrovano stasera a Bruxelles per cercare un rimedio al progressivo scivolare della moneta unica, malgrado il piano di sostegno annunciato una settimana fa. Intanto l'Italia pensa alla manovra correttiva. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. I ministri delle finanze si incontreranno dunque per fare il punto sul piano da oltre 700 miliardi a sostegno della moneta unica varato appena una settimana fa. L'euro, tuttavia, e l'andamento negativo dei mercati continua a tenere sulle spine i governi del vecchio continente. Ci si interroga su come far tornare la fiducia negli operatori internazionali preoccupati dal debito di molti paesi. Sarà presente all'Eurogruppo anche il nostro ministro dell'economia. Tremonti, nei suoi incontri informali, cercherà di tranquillizzare i partner europei sulla solidità dei conti del nostro paese. Potrebbe anche illustrare in grandi linee quella che potrebbe essere la manovra per il prossimo biennio. Si parla di interventi per circa 28 miliardi di euro, con una stretta su statali e pensioni. Sul primo tema tuttavia interviene il ministro Brunetta, che tranquillizza i dipendenti pubblici. Sentiamo Brunetta. Assolutamente no, nessun taglio di stipendio per i dipendenti della pubblica amministrazione. Non siamo a questo punto. Altro capitolo, il taglio delle indennità. Parlamentari e manager pubblici potrebbero subire una riduzione del 5%. Bossi auspica interventi anche sugli stipendi dei magistrati. Ok ai tagli, commenta dal Partito Democratico Bersani, ma il governo continua ad ignorare le priorità del paese, che sono redditi ed occupazione. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Ed ora un punto sull'inchiesta sugli appalti. Mio marito solo un granello, così la moglie di Scajola in un'intervista oggi in edicola. Intervista che non è piaciuta all'ex ministro. Guardano anche oltre Tevere le indagini sugli appalti per i grandi eventi. Gli inquirenti sono alla caccia di conti bancari esteri nei quali la cosiddetta cricca potrebbe aver nascosto i proventi delle sue attività, e fra le rogatorie internazionali in partenza ce ne sarebbe una anche verso il Vaticano. Nel corso delle indagini sarebbero infatti emerse tracce di passaggi di denaro verso lo IOR, la banca della Santa Sede, dove uno dei principali indagati, Angelo Balducci, ha già ammesso di avere un conto. Fra i personaggi sospettati di aver nascosto soldi all'estero c'è anche il coordinatore nazionale del PDL, Dennis Verdini, che però nega di aver occultato tesoretti in Lussemburgo, come sospettano gli inquirenti. Intanto Claudio Scajola, dimessosi dopo le rivelazioni sull'acquisto della sua casa con vista Colosseo, smentisce quanto dichiarato oggi in un'intervista dalla moglie. La donna aveva detto che l'ex ministro avrebbe deciso di non parlare per non tirare in ballo personaggi più importanti di lui che sarebbero coinvolti nella vicenda. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma siamo di fronte ad una nuova Tangentopoli, il nostro sondaggio di oggi. Chi bazzica in Parlamento giura che da giorni il clima tra deputati e senatori è quello del chi sarà il prossimo. Prossimo a essere coinvolto in inchieste. E inevitabilmente la memoria corre al 92, ai tempi di Tangentopoli. La lista Anemone, l'elenco dei clienti del costruttore coinvolto nell'inchiesta del G8, fa tremare i palazzi. Questo vi chiedevamo nel sondaggio di oggi. Secondo voi è in arrivo una nuova Tangentopoli? Il 75% di voi dice di sì. L'eurodeputato Luigi De Magistris ricorda il 92 e dice: peggio, perché è un sistema fortemente intriso di corruzione e anche di criminalità organizzata. Questa, diciamo, è un po' una punta apicale, ma non è solo ovviamente la lista Anemone. La cosa grave è che sono metodi corruttivi che si realizzano attraverso apparenti strumenti di legalità, ordinanze, delibere, leggi, provvedimenti. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E noi parliamo di calcio. Luigi Del Neri non è più allenatore della Sampdoria. In un colloquio telefonico, l'allenatore che ha portato la Sampdoria in Champions League ha comunicato al presidente Garrone la volontà di accettare l'offerta della Juve per la prossima stagione. In Italia, intanto, nelle file dell'Inter c'è ancora aria di festa, il giorno dopo la conquista del 18° scudetto. Le lacrime di Mourinho a fine partita, un segno di grande umanità e affetto verso i giocatori e verso il pubblico, ha detto il presidente nerazzurro Massimo Moratti. Ma l'Inter ora pensa alla finale di Champions di sabato. Siamo i più forti, dice Mario Balotelli, intervistato da Dario Ricci. È bello che abbiamo vinto lo scudetto, è bella questa festa, soprattutto perché è stata una stagione tribolata, perché se fosse andato tutto liscio e avessimo sempre vinto, e questo non sarebbe stato così bello vincere. Adesso si va a Madrid, che Balotelli ci dobbiamo aspettare e che Inter ci dobbiamo aspettare? Io sarò disponibile come sempre e darò il massimo, e anche la squadra farà lo stesso. Cosa vi preoccupa di questo Bayern Monaco, che tra l'altro è in formissima, anche loro reduci dalla doppietta Coppa di Germania campionato? Io penso che abbiamo visto quanto siamo forti noi, ho sempre detto non bisogna guardare gli altri, noi dobbiamo pensare che noi siamo i più forti perché siamo i più forti e giocare come siamo capaci, non guardare gli altri. Se stiamo lì a guardare gli altri non giochiamo come sappiamo noi. Intanto durissimo colpo per la Germania, ai mondiali sudafricani non giocherà il capitano Michael Ballack. Il centrocampista 33enne del Chelsea si era infortunato alla caviglia sinistra sabato scorso durante una partita e oggi è arrivato l'amaro responso dei medici. Siamo al ciclismo, nona tappa apparentemente facile, quella di oggi dopo due giornate molto difficili al Giro d'Italia, da Frosinone oggi a Cava dei Tirreni. Pier Augusto Stagi ha intervistato Damiano Cunego. Sicuramente oggi dovrebbe essere una tappa più tranquilla, nel senso lavoreranno i velocisti per arrivare in volata. Gli uomini di classifica resteranno in gruppo, salvo comunque conoscendo queste zone ci sarà molte insidie, nel senso nella strada, molti cambi di strada, buche, queste zone sono un po' particolari, bisogna stare attenti a non cadere e sperare che non piova. Senti, due giorni molto difficili sulle strade bianche, ieri il Terminillo, tu sei venuto in questo Giro d'Italia diciamo con un profilo molto basso, però sei lì, tra i primi 10 a 3 minuti e poco più, un giro che vede anche Damiano Cunego tra i grandi protagonisti. Sì, per ora in classifica sono veramente con i primi, siamo tutti lì a pochi secondi, pochi minuti da qualcuno. Credo che però la classifica si farà l'ultima settimana, perché là ci sono ancora tutte le grandi salite da fare. Finora abbiamo fatto qualcosa, ma quello che ti aspetterà sarà veramente molto molto duro. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato purtroppo dei due soldati italiani uccisi in Afghanistan, fra i feriti come sapete anche una donna, ma il governo dice la nostra missione non si fermerà, per Bossi sarebbe infatti una fuga. Stasera l'Eurogruppo in soccorso dell'euro, intanto l'Italia pensa alla manovra correttiva, nessun taglio agli stipendi pubblici, rassicura Brunetta. Dopo i guai con gli appalti, quelli con la moglie, Scaiola, non condivido l'intervista di oggi, dice l'ex ministro. E poi abbiamo sentito le parole di Balotelli a Radio 24, siamo i più forti, dice, con il pensiero rivolto a Madrid. E ripartiamo ora dalla grande festa Bobbio Piacentino per il ritorno in Italia di Angelo Falcone, 29 anni, arrestato in India 3 anni fa mentre si trovava in vacanza con un amico con l'accusa di narcotraffico e poi assolto lo scorso dicembre. L'amico Simone Nobili sarà invece rimpatriato a breve. In questi 3 anni il padre di Angelo, Giovanni, con il suo blog ha ingaggiato una strenua battaglia per la difesa dei diritti del figlio e degli altri carcerati italiani all'estero. Voglio solo dimenticare, dice ora Angelo al microfono di Maria Luisa Pezzali. Felicissimo, cosa devo dire? Felicissimo, dopo 3 anni e mezzo mi sembra normale, spaesato e basta. Che cosa vi siete detti col papà? Il primo quarto d'ora niente, ci siamo abbracciati e basta, è un po' l'emozione, è normale penso. Se ripensa a questi 3 anni, Angelo... No, non ti voglio ripensare, guarda. No, adesso sono in Italia, sono con la mia famiglia, sono stracontento, voglio cercare di cancellare del tutto questi 3 anni, voglio cancellare l'India e spero che anche la gente italiana che va in India capisca cos'è effettivamente l'India, perché non garantiscono niente ai turisti, è quello lì il problema. Lei da là sapeva di tutta la mobilitazione di suo padre? Sì, sapevo, ma in India funziona come vogliono loro. Ho visto anche gli ultimi 3 giorni con tutte le carte di giudici, avvocati, ordini che dovevano ridare il passaporto, tutto, ancora facevano delle storie. Anche in aeroporto per mezz'ora mi hanno tenuto dentro, non mi volevano far passare il check-in perché dicevano che non era un documento legale, rilasciato dallo Stato indiano, figuriamoci. Quando veramente ha tirato il sospiro di sollievo e veramente ha pensato è finita? Quando lei ha toccato Malpensa. Non prima, perché c'è anche il pericolo aereo, non si sa mai, no? C'è una possibilità su 1000, però quando l'aereo ha toccato Malpensa, ha detto, boh, sono arrivato, non può succedere più niente. E ci mancava solo quello. Dunque, il vulcano islandese, ancora disagi agli scali londinesi, chiusi Amsterdam e Rotterdam. La nube di cenere del vulcano islandese colpisce ancora. Oggi, parola di Eurocontrol, l'Agenzia Europea per la Navigazione Aerea, saranno almeno 1000 i voli cancellati sui 28.000 previsti. Intanto gli aeroporti londinesi di Gatwick e Heathrow, dopo una chiusura notturna, hanno riaperto alle 8 ora italiana, ma solo parzialmente. Ad Heathrow, primo aeroporto europeo per traffico internazionale, partenze e arrivi sono ridotti e si profilano annullamenti e ritardi. La situazione per i viaggiatori resta perciò caotica. In Irlanda, Scozia e Galles diversi scali resteranno chiusi fino a fine mattinata, mentre gli aeroporti olandesi di Amsterdam e Rotterdam saranno chiusi fino alle 15. Secondo le ultime previsioni, comunque, entro mercoledì, grazie all'arrivo di una corrente d'alta pressione dall'Atlantico, la situazione nel nord Europa dovrebbe migliorare. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è notizia proprio di pochi istanti fa che sono state annullate tutte le restrizioni ai voli introdotte stamane a Heathrow e Gatwick, i maggiori aeroporti di Londra, a causa appunto della nube di cenere vulcanica di cui stavamo parlando poc'anzi. E rientriamo in Italia con un argomento del tutto diverso: oltre 5 milioni di famiglie, 12 milioni di individui, 270 emittenti, più di 8.000 impianti. Ecco le cifre del passaggio alla TV digitale terrestre che domani interessa Lombardia, Piemonte orientale, le province di Parma e Piacenza. Non solo un cambiamento tecnologico come sta avvenendo nel resto d'Italia. Il passaggio al digitale terrestre porta con sé il cambiamento delle abitudini degli italiani. Nuovi canali sempre più tematici e sempre più spettatori che abbandonano le reti generaliste. Antonio Franco di Mille Canali. Sarà sempre più forte l'adesione anche a queste nuove offerte che sono più verticali, quindi che cattureranno un target di telespettatori più specifico. La stessa Rai 4, a cominciare dalla Sardegna, già dalla mattina alla sera va superato le reti minori. C'è una situazione sicuramente di libero mercato, ma che porta poi anche a un aumento dei programmi disponibili per i network. Difatti i network comunque hanno raddoppiato il numero di frequenze che avevano prima, quindi la Rai è passata da 3-6, così come Mediaset, così come Rete A, eccetera. Quindi difatti c'è, se vuoi, per il telespettatore sicuramente un'offerta ancora più interessante. Più audience, più pubblicità, il digitale rischia di premiare anche economicamente solo i più grandi e le piccole non possono stare a guardare. Il digitale terrestre obbliga difatti le emittenti locali a essere più editori televisivi e, se vuoi, meno commercianti. In passato le TV locali hanno puntato molto sulla televendita per fare fatturato. Se un editore vuole che ancora la sua emittente sia seguita a livello locale, deve necessariamente fare dei prodotti interessanti. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E siamo al Festival di Cannes. Questa mattina la proiezione di Beautiful di Iñárritu, attesissimo dai critici. Come è andata? Lo chiediamo alla nostra inviata Cristina Battocletti. Buongiorno Cristina. Buongiorno a voi. Questa mattina, come avete detto da studio, c'è stato un vero assalto per vedere Beautiful in film concorso del messicano Iñárritu. La pellicola racconta una Barcellona diversa da quella che conosciamo, quella dei sobborghi, di un uomo che è interpretato da Javier Bardem, che sfrutta la manodopera a cosimo di cinesi africani, ma ha un'umanità profonda, come se soffrisse della situazione e cerca di fare loro del bene. La stampa ha reagito tiepidamente con qualche fischio alla fine della proiezione, forse per la troppa carne al fuoco. Il protagonista infatti sta anche per morire di cancro e non sa chi lasciare i figli perché la moglie ha grossi problemi psichici. E noi viviamo in una società che rimuove i problemi, ha detto il regista in conferenza stampa. Non vogliamo diventare vecchi, non abbiamo una vita reale, chattiamo. Questa vita reale, sono molto soddisfatto per la prima volta del mio film. Grazie Cristina. In concorso anche l'ultimo film di Takeshi Kitano, questo com'è? Allora, il film di Kitano, Oltraggio, è una commedia splatter su una lotta di potere all'interno di Yakuza, la mafia del più potente del sollevante. Kitano spesso recita nella figura di un perdente, la conferenza stampa è finita proprio pochi minuti fa. Kitano è stato molto divertente, ha detto: per la prima volta ho inserito anche dei dialoghi nei miei film e questa è un'evoluzione, ci sono scene di violenza spettacolari. Il sistema mafioso in Giappone è molto cambiato, molto più tecnologico, ma se volete avere dettagli chiedete al mio produttore, che è ben inserito nel sistema, ha detto Kitano, facendo ridere tutta la sala. Grazie, grazie a Cristina Battocletti per averci raccontato come va oggi a Cannes. Noi chiudiamo questo GR24 con una buona notizia che arriva dalla Thailandia, perché sta bene nel fotoreporter italiano Flavio Signori, rimasto ferito nel corso degli scontri fra manifestanti e militari a Bangkok. Ve ne avevamo riferito nel corso di questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.